alla Shoah e alla giornata della memoria con due appuntamenti diversi. Il 28 la mattina qui in biblioteca e il 29 al centro Trevi in orario serale. Questo per permettere a più persone, soprattutto anche alle scuole, speravamo, ecco, di partecipare a questi incontri. Effettivamente in questa settimana ce ne sono parecchie di iniziative, quindi c'è un po' di congestione, le scuole sono chiamate a partecipare in più occasioni, ma soprattutto so che anche molte scuole locali hanno organizzato già da sé, insomma, in casa propria alcune occasioni di riflessione sulla memoria. Come vedete al tavolo oggi ci sono solo donne, perché la giornata della memoria abbiamo pensato quest'anno di costruirla sulla memoria delle donne, di signore, bambine all'epoca dei fatti che vivevano qui a Bolzano e che ricordano una parte importante della storia mondiale, però declinata in un contesto locale. Quindi abbiamo con noi Maria Pia Zamboni, Ada Vita, che sono le testimoni chiamate a portare i loro ricordi e a condividerli con noi. Abbiamo Alessandro Zendron, che invece introdurrà questa giornata con un discorso e una contestualizzazione più scientifica, storica. Abbiamo con noi anche Mariella Fassardi e Teresa Pasciuti, che invece saranno la voce di questi ricordi. Tra il pubblico ci sono altri testimoni, abbiamo il senatore Leonello Bertoldi, che con l'ANPI ci ha dato una mano, anzi è stato l'ispiratore di queste iniziative e lo ringrazio. C'è Orazio Leonardi, che è un testimone prezioso e un amico della biblioteca anche da anni. Abbiamo Alba Parisi, è da tempo che dico non devo dirlo e l'ho detto oggi, o meglio, ho corso il rischio. Abbiamo con noi Alba Giampiccolo, ma stavo per dire, ecco, qualcos'altro. Alba Giampiccolo che lunedì ha inaugurato questa settimana con le sue memorie. Quello che la biblioteca vorrebbe fare e che farà quest'anno è aprire una pagina importante del sito web della nostra biblioteca dedicato proprio alla memorialistica. Quindi chiunque avesse dei diari, non solo legati a questo tema, ma in generale alla propria vita vissuta e trascorsa in questo territorio, avesse voglia di lasciare delle testimonianze, noi saremo molto contenti di preservarle e di diffonderle attraverso il nostro sito web, sull'esempio di quello che viene fatto attualmente anche da tanti altri istituti, fondazioni che si occupano di storia moderna e contemporanea e soprattutto di memorialistica. È una parte importante che vorremmo così far conoscere e custodire gelosamente. Quindi Alba Giampiccolo ha già consegnato il suo diario, ci sono altre persone che l'hanno fatto e quest'anno contiamo entro marzo di mettere in linea questi documenti. Invitiamo a diffondere la voce e a pensarci su, insomma, se siete d'accordo con la nostra iniziativa. Bene, allora io, prima di passare la parola al senatore Bertoldi, presento appunto le nostre relatrici. Iniziamo da Teresa Pasciuti, che è qui nell'angolo e leggerà il diario di Ada Vita, la dottoressa Zendron, che ci farà l'introduzione storica, la dottoressa Ada Vita, testimone e autrice del mio diario segreto, Maria Pia Zamboni, autrice dei Ricordi dal Cuore, e la dottoressa Mariella Fassardi, che sarà la voce di Maria Pia Zamboni e di Orazio Leonardi. Vi ringrazio e buona mattinata. L'ultima cosa, mi scusi, abbiamo una bibliografia aggiornata sul tema della memoria che potete prendere oppure scaricare dal sito e una filmografia, suggerimenti di film che potete trovare, prendere in prestito al centro audiovisivo in via Cappuccini, sempre legati a questo tema. Grazie. Prendo solo la parola perché mi preme ringraziare della presenza, perché è venuta da Milano Rossella Ratti. Chi è Rossella Ratti? Rossella Natti è la nipote di un eroe, che è passato dal lago di Bolzano, si chiamava Armando Sciacchetta. Voi sapete che le donne, a proposito di donne, all'interno del lager avevano organizzato un comitato clandestino di resistenza, e chi guidava questo comitato clandestino di resistenza era Maria del lager, cioè Ada Buffolini. Naturalmente c'erano anche dei maschietti, fra i maschietti c'era anche Armando Sciacchetta, che prende il posto di Ada Buffolini quando Ada Buffolini, scoperta della corrispondenza che tiene dentro il lager, mandata all'esterno. Allora la posta clandestina dal lager alla città di Bolzano, i compagni che stavano fuori, era giornaliera, funzionava benissimo. Scoprono Ada Buffolini che tiene la corrispondenza e la schiaffano in cella. Allora prende il posto di Ada Buffolini Armando Sciacchetta. Chi era Armando Sciacchetta? Armando Sciacchetta era nato a Tripoli, era un tripolino, figlio di un alto ufficiale della Marina, lui stesso guarda marina di Vascello, si trova nella resistenza perché opera assieme a un gruppo clandestino OSS americano. Viene catturato in combattimento, ferito una gamba, la gamba le viene amputata e viene portato al carcere di San Vittore. Dal carcere di San Vittore viene trasportato a Bolzano. Arriva a Bolzano nel settembre 1944 e rimane con la gamba appena amputata dal settembre 1944 fino al 29 aprile 1945, quando viene liberato. Liberato torna a Milano perché ha bisogno di farsi curare la gamba. La gamba è andata in cancrena in tutto questo periodo. Lui ha diretto senza un lamento, senza mai dire a nessuno mi fa male la gamba, dal settembre 1944 fino al 29 aprile 1945. Arrivato a Milano nel maggio, viene operato il 28 maggio 1945, però ormai è troppo tardi, e muore il 28 maggio 1945, a 23 anni. Questo è Armando Sciacchetta. Per questo dico che è un eroe, soprattutto perché all'interno del lager ha condotto per lungo tempo tutto il comitato clandestino di resistenza e il rapporto con la resistenza esterna, senza mai lamentarsi che stava morendo per la sua gamba. Ringrazio la nipote che è venuta a trovarci a Bolzano. Vi informo che purtroppo stamattina io rappresento l'ANPI, di cui ho iscritti qua, che distribuisco le tessere anche stamattina, e rappresento anche l'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici, di cui ho il mandato. Stamattina, oltre Leonardi, purtroppo, non ci sono altri rappresentanti dell'ANEI, l'Associazione Nazionale Ex Internati Militari nei territori del Reich. Barbierato per Chile e i rappresentanti dell'ANEI si scusano perché stamattina hanno degli impedimenti dovuti all'età. Stamattina hanno uno alla bronchite e l'altro a letto con la febbre. Ne prego di giovani. Bene, buongiorno. Allora io approfitto di essere seduta qua per dire che questa idea di fare un sito sulla memorialistica mi sembra una cosa bellissima, che è molto importante perché, come sapete, sulla storia delle donne manca la documentazione, in quanto in genere la documentazione che riguarda le donne viene considerata poco importante e viene buttata anche via, no? Mentre invece è importante che si tenga. Io faccio parte del direttivo dell'archivio storico delle donne qui di Bolzano e anche noi raccogliamo questo e comunque siamo molto interessati a fare anche dei collegamenti con questi luoghi di raccolta, perché è importante che ci sia una, ecco, questo. Allora io cambierò un po' le prospettive con cui pensavo di affrontare questa mattinata, perché avevamo pensato che forse sarebbero venuti dei giovani e quindi non mi sembra opportuno di dire a voi quello che, appunto, di raccontare a voi quelle cose che forse voi già sapete anche meglio di me per molti versi. avendole io studiate. E volevo, diciamo, cominciare solo ricordando brevemente che il giorno della memoria è stato fatto, diciamo, deciso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005 e fissato al 27 di gennaio, che è una data convenzionale perché appunto è il giorno della liberazione di Auschwitz, però non è stato l'ultimo lager, ci sono persone che sono state come qui a Bolzano fino al 28 di aprile e anche più tardi, quindi è importante ricordarsi queste differenze e che, diciamo, molti paesi hanno deciso di prendere come data di riferimento il 27 di gennaio, ma altri, ad esempio l'Austria, che a noi vicina e con cui abbiamo molto in comune, al 5 maggio perché è il giorno di apertura di liberazione del lager di Mauthausen. Quindi, insomma, questo è importante. Io poi ai giovani avrei letto il testo e mostrato anche, perché avevo anche un PowerPoint, il testo della legge, perché penso che sia una legge molto bella e che dica in maniera molto bella quali sono gli obiettivi. E, diciamo, il mio piccolo ragionamento e contributo e parte dall'invasione della Polonia, perché io penso che lo scoppio della guerra sia stato fondamentale per dare un segnale e anche per dare il via a una politica verso soprattutto gli ebrei, che ne fa appunto un momento fondamentale. E che ci fa anche capire quale sia stata l'intenzione e la pianificazione. Le intenzioni dei tedeschi erano di conquistare grandi territori ad est in un progetto coloniale che proprio negli ultimi 10 anni è stato studiato come quasi una compensazione della perdita delle colonie in cui i tedeschi non avevano mai un grande successo e che avevano perso poi anche alla fine della prima guerra mondiale, e praticamente viene teorizzato che diciamo, la conquista dei grandi territori a est considerati spopolati oppure peggio ancora popolati da popoli inferiori devono diventare il Lebensraum, lo spazio vitale per l'espansione dei tedeschi. Questo si intreccia molto con le politiche anche interne, perché come voi sapete, questo anche fa parte di tanti studi di storia delle donne, c'era una politica espansionista demografica, di espansione demografica rivolta alle donne ariane, per cui spesso si dice che la Germania fece una politica pronatalista. E credo che, diciamo, approfondendo anche dal punto di vista delle donne questo concetto, non possiamo essere d'accordo, perché accanto a una politica pronatalista fatta anche con il Lebensborn e altre cose che adesso non vado qui a approfondare, accanto a questo c'era invece una politica di vera e propria denatalità che riguardava le cosiddette materie biologiche inferiori, come venivano definite, con costrizioni di massa ad aborti, eccetera. Quindi, a parte appunto gli assassini, però anche, diciamo, proprio sulla politica della sessualità, questo era molto, diciamo, un aspetto molto importante. Quindi, diciamo, a questa politica di espansione in un senso se ne affiancava un'altra, e questo, diciamo, faceva emergere una concezione fondata su questa assurda idea che esistano esseri umani e popoli inferiori e superiori. Poi, e diciamo che poi anche a questa concezione era legato ovviamente il progetto di trasferimento di massa o addirittura di eliminazione di questi popoli inferiori. In effetti questo fu esercitato verso i polacchi, che furono anche uccisi, ovvero uccisioni di massa, e attraverso anche la diffusione di un odio e misto alla paura verso quelli che si andava ad affrontare. Ad esempio, io, visto che siamo in biblioteca, cito qualche libro. C'è un libro molto interessante di questa, fatto da Sabine Peer, una sudtirolese, che è intitolato Südtirol hinter Stalins Stacheldraht, cioè il Sudtirolo sotto, dietro il filo spinato di Stalin, in cui racconta la storia dei prigionieri dopo la guerra, prigionieri dei russi, su tirolesi prigionieri dei russi, alcuni dei quali tornarono anche dopo il 55, che testimoniano spesso di essere stati informati che i russi non facevano prigionieri, uccidevano tutti i tedeschi, che erano, diciamo, animati da quell'odio che si voleva suscitare in loro e che in effetti ebbe, cioè, c'era nelle aspettative dei, e quindi il regime nazionalsocialista in questo senso aveva preparato il terreno per avere un forte appoggio da parte della popolazione di lingua tedesca. Quindi diciamo che tutto questo diventa poi nel corso della guerra uno dei soggetti di esportazione da parte dell'esercito tedesco, che con il Blitzkrieg paralizza per un paio di anni l'Occidente e si espande verso Oriente, anche attaccando poi la Russia, eccetera, e con l'aiuto dell'Italia. Anche qui bisogna dire che l'Italia da un certo punto in poi collabora pienamente e diciamo solamente di fronte all'ipotesi di una sconfitta depone Mussolini poi nel 1943, perché prima insomma entra in guerra pensando di condividere i risultati positivi delle vittorie e poi appunto in quel momento e lì appunto bisogna dire che appunto lì per approfittando di questa situazione si svolge questa altra storia parallela che insomma, parte già nel 1933 in Germania, la storia della distruzione degli ebrei d'Europa, come io dico usando l'espressione di Raoul Hilbert nel suo studio del 1961, che viene conosciuto anche come Shoah o Olocausto, che però forse non dicono esattamente quello che è il risultato di questa operazione, che toglie all'Europa una lingua, l'Yiddish, che toglie all'Europa una grandissima cultura, che era poi parte della cultura, perché gli ebrei d'Europa erano integrati in gran parte almeno in Occidente e quindi diciamo, erano cittadini normali, e in effetti poi non si aspettavano che e non si aspettavano di essere trattati come sono trattati e fecero molta fatica a capire questo, capire quello a cui andavano incontro. C'è questo libro di Feuchtwangler, che insomma è un libro, è un romanzo di Geschwister Oppermann, che non so se sia mai stato tradotto in italiano, però adesso. E è un libro bellissimo perché racconta la storia di ebrei borghesi di Berlino, di Potsdam, dove avevano le loro belle case, che non possono credere a quello che succede e in effetti vengono poi coinvolti nella Shoah, perché non riescono a credere, perché in effetti appunto è difficile credere a quello che è. Io appunto salto un po' di cose che voglio dire ricordandovi solo alcuni aspetti, cioè che gran parte degli ebrei tedeschi, i due terzi più o meno, nei primi 8 anni dal 33 al 41 riescono a emigrare all'estero, e pur dovendo lasciare la grandissima parte dei loro averi in Germania, perché appunto ogni volta viene ridotta la quantità di cose che sono. E qui ad esempio negli studi delle donne, che sono ancora pochi ma sono molto interessanti, appunto si vedono le donne che fanno i bagagli e che devono sempre restringere di più i loro bagagli e le cose che possono portare con sé, e sono le cose della loro vita, della vita dei loro genitori, dei loro antenati, cioè tutto da mettere in un paio di valigie che poi non si sa neppure se si riuscirà a portare avanti. E quelli che rimangono sono quelli che appunto hanno più fiducia che le cose cambieranno. Ci sono più donne che uomini, perché molte figlie lasciano, cioè non se la sentono di lasciare i genitori bisognosi di cure, e quindi anche questo è un effetto, una cosa che viene studiato anche da Maria Felsina ad esempio, e altre. Io nomino qualche studiosa perché qui abbiamo una signora della comunità ebraica molto esperta di queste cose con cui ne abbiamo anche parlato, e quindi diciamo è molto sì, anche per e vorrei dirvi una cosa sulla notte dei cristalli, che anche qui diventa un momento diciamo particolare, in cui in Germania, in Austria, in Cecoslovacchia vengono distrutte 267 sinagoghe, migliaia di negozi, studi professionali, abitazioni, e poi 30.000 uomini ebrei vennero internati nei campi di concentramento di Dachau, Sachsenhausen e Buchenwald, cioè quelli ancora in Germania, e fu un pogromo spontaneo non fatto né dall'esercito né dalle forze dell'ordine, però diciamo tutti coloro che parteciparono alle violenze, nessuno di questi venne fermato o sanzionato in nessun modo, anche se ci furono 400 morti. A questo proposito, io, se lo trovo, vorrei leggervi una cosa che, appunto, riassumendo un po' il mio intervento, ho letto in questo studio importante, di cui magari vi dico qualcosa anche dopo, Donne nell'Olocausto, ma che anticipo, che è curato da Dalia Hofer e Eleonore Weitzman, sono due studiose, una dell'Università di Gerusalemme e l'altra dell'Università di Fairfax in Virginia, o almeno lo era quando hanno fatto, insieme altre 20 studiose israeliane, europee e statunitensi, e in cui hanno studiato vari aspetti della vita delle donne nel mondo ebraico, appunto già dalla fine dell'Ottocento, dalla loro formazione, eccetera, poi l'inizio della persecuzione, della diffusione dell'odio razziale e poi avanti fino appunto allo sterminio, seguendo in tutto questo percorso con testimonianze fatte apposta per questo che fu un convegno del 1995, poi la pubblicazione del 98, che in italiano è uscita nel 2001 con una bellissima prefazione di Anna Bravo, che è una bravissima storica che sicuramente molti di voi conoscono. Io vi vorrei leggere questa cosa dello studio di Marion Kaplan, che racconta anche in parte una testimonianza, come fosse un po' diverso lo sguardo delle donne all'interno di quella che fu chiamata in modo dispregiativo la Kristallnacht. Non è il nome che diedero gli ebrei, ma che diedero i nazisti per dire: ah sì, sono le notti dei cristalli, come se fosse una cosa bella in qualche modo. E poi rimase come il nome di tutti, e tutti lo diciamo senza poi magari pensare a che cosa fu effettivamente. E vi leggo questa piccola cosa che secondo me è molto significativa e interessante. E dice Marion Kaplan: il pogrom di novembre, del novembre 1938, rivelò la radicalizzazione della persecuzione nazista. Nonostante che venisse definito Kristallnacht, notte dei cristalli, espressione che normalmente rinvia alle vetrine infrante di migliaia di negozi, case e sinagoghe degli ebrei, i ricordi delle donne ebree si focalizzano non tanto sui vetri rotti, quanto piuttosto sulle piume disperse nell'aria, disseminate nelle stanze, negli atri, nei giardinetti e nei cortili. Come nei pogrom che erano avvenuti in Russia alla fine dell'Ottocento, la folla strappava le coperte e i cuscini di piuma e li scuoteva nelle stanze, fuori dalle finestre, per le scale. Gli ebrei venivano così privati della biancheria da letto e del senso di sicurezza fisica e psicologica che ciò rappresentava. Inoltre, oggetti del genere non potevano essere sostituiti in breve tempo, sia per il loro costo, sia perché in un'economia sulla quale incombeva la guerra, la disponibilità di biancheria per la casa era drasticamente limitata. Questa immagine delle piume che volano, di uno scenario domestico gravemente turbato, costituisce per le donne la più importante esperienza del pogrom. Questo mi ha molto colpito quando lessi questo libro, perché mi sembra che dia un'immagine molto chiara di come lo sguardo delle donne possa essere diverso rispetto a una stessa esperienza. Inoltre bisogna pensare che in quell'occasione 30.000 uomini furono rinchiusi nei campi che allora, insomma, li chiamiamo generalmente di concentramento, anche se c'erano varie funzioni, dove anche molti morirono, fra il resto per gli strapazzi a cui furono sottoposti, e le donne andarono per cercare di venire, però si pensava, tutti partivano dal presupposto che le donne potessero essere più coraggiose perché prigionieri venivano presi solo gli uomini, cosa che si rivelò poi nel momento in cui vengono formate le reti assolutamente sbagliata e priva di fondamento, perché come sappiamo, diciamo, il progetto dello sterminio riguardava indifferentemente tutti, e anzi per le donne fu peggiore, nel senso che, diciamo, questa vulnerabilità, le donne nei campi di concentramento erano più vulnerabili, soprattutto le donne con i bambini, o le donne appunto nel momento in cui magari avevano bisogno della loro, nella loro vita biologica, di più assistenza oppure di più riguardo, era proprio il momento in cui venivano eliminate. E io, anche se diciamo la gran parte di voi conoscono questa cosa, vorrei appunto dire ancora un po' di dati rispetto al sistema messo in piedi dal Terzo Reich, che fu un sistema concentrazionario, con appunto lager di vario livello, e che è composto di almeno 6.000 campi. Perché forse ce n'erano di più, ma ancora devono essere scoperti. Come sapete, anche qui a Bolzano è di recente che si è scoperto che intorno al lago di Bolzano poi c'erano ancora altri piccoli, no? Tipo diverso, ma insomma. In questi laghi erano tenuti, cioè erano questi misero in piedi una macchina mostruosa, quasi industriale, che si mise in moto per eliminare i nemici del regime e coloro che, in base a una perversa concezione, erano ritenuti appartenenti appunto ai popoli inferiori, come ebrei, rom, sinti, e poi furono eliminati anche i malati di mente, gli omosessuali, i portatori di handicap. Quindi 12 milioni di persone che vennero eliminate in questo modo. Anche sui malati di mente ci sono degli studi locali che riguardano quelli rivolti a Pergine, eccetera, che sono molto interessanti. Adesso troverete anche nella bibliografia. Vedo che la dottoressa ci fa, guarda. E quindi diciamo i giovani degli eserciti americano e russo e sovietico che si trovarono davanti a questi campi in quei giorni, come quello che evochiamo noi, ne furono sconvolti, erano giovani pieni di vita e pieni di forza, e vedere questo abominio sicuramente fu per loro qualcosa di terribilmente, terribilmente sconvolgente. E a questo proposito, di quanto sia difficile, anche poiché diciamo, noi cerchiamo di fare memoria anche con le nostre importanti testimonianze, e quanto sia difficile riuscire a rendersi conto di questa cosa, lo dice in maniera molto chiara Liliana Picciotto, che credo sia la più importante studiosa di Shoah in Italia, e che ha detto l'anno scorso, ha parlato al Quirinale davanti al presidente Napolitano, lei ha detto: a 60 anni di distanza è difficile convincersi che un castello ideologico costituito da false credenze, da un'etica determinista senza fondamento scientifico come la visione gerarchica tra i popoli, abbia potuto essere tanto conseguente da provocare la quasi distruzione del popolo ebraico. Questo, secondo me, è anche questa meraviglia che sempre ci suscita il vedere tanta, tanta crudeltà, tanta follia, e credo che debba essere insomma sempre presente a noi. Insomma. Allora, vi direi adesso due o tre cose, poche sulla situazione speciale in Alto Adige. Qui ho anche una bella cartina da farvi vedere, però insomma poi la maggior parte di voi già lo conoscono, quindi cioè l'Italia era divisa in due praticamente, qualcuno, anche storici democratici, parla negli ultimi tempi di guerra civile, un discorso un po' delicato, perché ovviamente è una guerra civile un po' in cui da una parte si lotta per la libertà e la democrazia e dall'altra invece per sostenere la prosecuzione di un totalitarismo, per il resto sotto protettorato germanico. Qui invece c'era la zona di operazione delle Prealpi, e forse non è un caso che i quattro lager che vengono fatti in Italia siano due nella Repubblica Sociale e due nei due capoluoghi, nelle due capitali delle due zone di operazione delle Prealpi, una è Bolzano e l'altra è Trieste. E quindi sicuramente non è un caso, è una cosa che ancora forse non è stata studiata a fondo. Proprio della Picciotto, credo ieri sia uscito un libro che credo sarà molto importante, e che è intitolato, che anche mi pare di aver citato l'altra volta, ma voglio essere precisa, L'alba ci colse come un tradimento, edito da Mondadori, è uscito proprio in questi giorni, e che è il risultato dei suoi studi su quella che fu l'azione delle forze di polizia, diciamo, della Repubblica Sociale, no, nel catturare ebrei oppositori politici, resistenti, eccetera, e non solo in parte ucciderli essi stessi, ma anche nel caso in cui non l'abbiano fatto, in cui dicono noi non siamo responsabili, di fatto di consegnarli ai trasporti tedeschi che poi li portarono. Quindi, diciamo, questa funzione di proprio tramite di andare a scovare nelle case gli ebrei e quelli che venivano, insomma, e di portarli ai tedeschi, è una cosa che appunto trovo in questi studi, in questo studio, probabilmente un momento in cui si aprirà una prospettiva nuova anche nel dibattito politico un po' penoso, che credo faccia anche soffrire un po' di noi, in cui si cerca di mettere, o qualcuno ci mette sullo stesso piano, chi combatteva da una parte e chi combatteva dall'altra, no? Quindi questa è una cosa che ci tenevo un po' a dire, perché appunto speriamo che questo studio porti avanti. Ecco, io direi qui che ancora piano piano mi avvio a lasciare la parola alle più importanti voci di questa mattinata, e vorrei dire che la situazione dell'Alto Adige soprattutto era una situazione molto diciamo frammentata e molto conflittuale, e in cui le persone qui erano già traumatizzate da tanto tempo da una convivenza che era dettata non dai loro interessi o dai loro sentimenti, ma dall'interesse dei totalitarismi nei quali vivevano, dal fascismo. Quindi anche le reazioni che ci furono, sia da parte appunto degli optanti, che tra cui vengono organizzate le forze di polizia della SOD, no, del Sicherheits- und Ordnungsdienst, che affiancano i tedeschi e d'altra parte che si mettono, che poi aiutano anche ad andare contro i Dableiber che si rifiutano di fare il giuramento, fra i quali ci sono molti, alcune centinaia di uccisi, sia condannati al tribunale speciale sia deportati a loro volta. E poi ci sono gli italiani che temono di perdere una patria che hanno conquistato da poco tempo. Sono, diciamo, sentimenti forti, emozioni molto forti che secondo me, non solo secondo me, ancora oggi determinano e influenzano com'è la visione di quel tempo, perché nel dopoguerra tutto è stato dimenticato e poi ci è voluto tanto tempo perché si riprendessero i fili dello studio. È stato dimenticato sia perché il dolore era troppo grande, è stato dimenticato per declinare le responsabilità, ma di fatto è solo da una quindicina d'anni, ad esempio, che si studia a fondo il lager di Bolzano, per dire tutto quello che c'era intorno, e anche, diciamo, si raccolgono anche se testimonianze erano raccolte ancora prima. E io, diciamo, direi quasi mi fermerei qui, poi se c'è un coso di interesse a parlare successivamente possiamo anche farlo. Vorrei solo citare brevemente la storica Anna Rossi Doria, che ha scritto una cosa che a me sembra molto, molto importante in questo momento in cui piano piano la generazione dei testimoni sta scomparendo, e per cui si deve trovare un modo diverso di fare memoria della memoria in qualche modo. E lei ha scritto, e con questo vorrei concludere, una memoria feconda è una memoria responsabile, cioè capace di farci ritenere responsabili della nostra storia nazionale, anche di quella che ha preceduto la nostra vita, e se occorre di rispondere per essa. Allora, parola. Vorrei ringraziare intanto la direttrice della biblioteca Claudio Busta, la dottoressa Trevisan, perché ha pensato di invitare noi, Maria Teresa, Maria Pia ed io, Ada, ritenendo che vissute negli anni 42-45 avremmo potuto portare il nostro contributo ed arricchire di altri episodi la commemorazione della settimana della memoria. più che nella giornata. I ricordi ci portano alle popolazioni, alle sofferenze e alle angosce vissute in quel periodo dalle madri, dalle mogli e dai figli dei nostri militari. In quegli anni, adolescente, scrissi degli appunti che si potrebbero anche chiamare diari. Quasi per caso dimenticati nel tempo, li ritrovo, li ricopio perché sono quasi sbiaditi, non si capisce niente, e completandoli con della corrispondenza di quel periodo ne faccio un libro. Da questo libro stasera, oggi, Maria Teresa ci leggerà alcune pagine che trattano quelle tremende giornate che in Italia e in particolare nella nostra zona hanno visto i nostri militari difendere le caserme, i fortini e poi purtroppo fatti prigionieri e deportati in Germania. Occorre, non credo che occorra. Proviamo. Bolzano, 8 settembre 1943. Pochi minuti fa la radio ha trasmesso il discorso di Badoglio che annuncia la fine della guerra. Tutti sono in strada e gridano dalla gioia. Ma chissà che cosa succederà qua. I tedeschi si rivolteranno? 9 settembre 1943. Sono in rifugio. Sono le 3 di notte. 5 minuti fa sentiamo sul più bello del sonno un fortissimo frastuono e un rumore tremendo. Alla svelta, così come si è, scappiamo nel rifugio e continuiamo a sentire scoppi. Dicono che i tedeschi hanno minato i ponti ed occupano i punti strategici. È già un'ora e mezzo che siamo qui giù, ma chissà che cosa avverrà. Mi raccomando l'anima a Dio. Mattina del 9 settembre 1943. Non si sa più che cosa fare. Siamo stati in rifugio fino alle 8. Poi siamo andati in cerca di pane. Una confusione tremenda. Non ci vogliono far passare, ma vediamo certi disastri per le strade. Tutte le caserme sbudellate e bucate. Nell'angolo del ponte Druso c'è una pozza di sangue e senza accorgermene ci sono andata dentro con le scarpe da ginnastica che indossavo per la prima volta e che non ho più avuto il coraggio di indossare. In quell'angolo, dietro la base che sostiene l'Aquila, vedo subito il cadavere di un bersagliere. In giro ci sono carri armati e ogni tanto passano nostri soldati prigionieri. Le macchine militari sono guidate da tedeschi. Si sentono colpi di cannone e fucile. Il fortino di Castelflaron resiste e così altri gruppi isolati. Il Virgolo è stato tempestato. I soldati hanno resistito fino alla mattina alle 8. Tutta la popolazione porta da mangiare quello che ha ai nostri soldati che sono a digiuno da quando sono stati fatti prigionieri. I militari che possono cercano di mettersi in borghese. I carri armati Tigre circolano per le strade di Bolzano. Ora cercherò per radio di sapere qualche cosa. Ad ogni piccolo rumore sobbalziamo. Bisogna vedere per credere. In questo momento si è udito uno scoppio molto forte. 10 settembre 1943. Durante la nostra cena ieri sera è stato tutto un susseguirsi di colpi di cannone. Papà, che è stato in ufficio, ha detto che tutti devono lavorare sulle scale perché ci sono pozze di sangue dappertutto. Un gruppo di alpini ha resistito. I militari tedeschi hanno sparato alle spalle ad un sergente che, dopo averli visti, voleva andare a telefonare per chiedere i rinforzi e all'ordine di fermarsi ha proseguito nel suo intento. L'hanno preso con 5 pallottole alle gambe. Eppur ferito, voleva continuare a difendersi. Nel ricovero della GIL sono stati trovati altri 2 nostri soldati che erano scappati. Alla Mendola e a Colisarco i nostri alpini resistono. Continuamente passano nostri soldati che danno a tutti gli italiani che trovano bigliettini con gli indirizzi per avvisare i loro parenti. Sono già 2 giorni che non mangiano. Molti sono stati fatti prigionieri. Una famiglia ospita e rifocilla molti soldati. Li ha poi aiutati a scappare. Abbiamo passato una nottata d'inferno. Avevamo deciso di fare la guardia a turno per sentire se c'erano rumori sospetti. Ma papà è andato a pescare le stazioni radio proibite e ci ha fatto venire una tale agitazione che abbiamo dovuto alzarci e farci della camomilla. Stamani, appena uscite, non vedevamo altro che facce tedesche che ci guardavano con un certo fare. La GIL, la caserma dei bersaglieri ed il comando della milizia sono tutti bucherellati. La caserma Principe di Piemonte dicono che sia tutta una rovina e ci sarebbero molti morti. Badoglio ha raccomandato la difesa del suolo italico, ma invece il generale Gloria è stato costretto a chiedere la resa. A difesa del corpo d'armata c'è un carro armato tedesco che, messo a confronto con i nostri, sembra una gallina vicino a tante mosche. Ieri sono passate tutte le nostre auto guidate da nostri soldati, ma erano prigionieri o persone arrese. Le inviano tutte alla zona industriale per farle lavare. Moltissimi soldati sono passati adesso diretti alla stazione. Li mandano tutti in Germania. C'è stata una persona che ha dato loro una cassetta piena di viveri e si sono avventati sopra ed alcuni sono perfino caduti per poter prendere qualche cosa. Quasi ogni militare fatto prigioniero ed in partenza per la Germania getta dai piccoli finestrini dei vagoni bestiame scritti su qualsiasi pezzo di carta per far avvertire i familiari che sono stati fatti prigionieri. Ci fermiamo sulla passeggiata lungo Talvera. Là c'è una mamma che abbraccia il figlio, le crocerossine che prendono i viveri dai civili e li distribuiscono ai feriti. Pare che stanotte siano scappati molti militari. È passata poi una barella con su un alpino tutto coperto. Certi dicono che sia morto, altri che è stato ferito da una mitragliatrice. Passano poi una decina di nostri soldati feriti, li portano all'ospedale militare San Quirino. Qui c'è chi piange e chi ride, ma ride bene chi ride ultimo. Un militare si è avvicinato e ci ha consigliato di non stare sotto la pioggia perché avremmo preso un malanno. E noi abbiamo risposto che noi ci possiamo poi cambiare, ma loro no. 11 settembre 1943. La fratellanza fra italiani è indescrivibile. Non esistono più partiti né associazioni. L'unico ideale è salvare i nostri soldati. Ai prigionieri si porta da mangiare e ci chiediamo come gli italiani abbiano potuto trovare tanto pane, castagnaccio, mele e cartoline. Ai soldati che riescono a scappare danno dei vestiti, alimenti e carte di appartenenza al fascismo, oppure li mandano alla Lancia, dove c'è una cubricola che li inserisce come dipendenti della fabbrica con un'anzianità di 4 o 5 anni. 13 settembre 1943. Il portinaio dei ferrovieri ci ha raccontato che quella notte era di guardia all'UMPA. È uscito alle 6 e è arrivato davanti alla caserma di bersaglieri di via Marconi, domanda in tedesco alle sentinelle se può passare e loro gli dicono di sì e lo frugano per vedere se ha delle armi. Lui intanto gira la testa e vede ammucchiati come tanti salami i bersaglieri morti. Li stavano caricando su un camion. Si incammina sul ponte e vede i cadaveri di un colonnello e più in là di 3 soldati, tra i quali quello su cui sangue io inavvertitamente ho camminato. Ha detto che ci saranno almeno 500 morti. Eh, Io adesso leggo alcune parti di questo libro di Maria Pia Zamboni, Ricordi dal cuore. Si sente? No. No. A partire dall'8 settembre... Devi aprire il microfono, c'è un pulsantino. Maria Pia a quell'epoca aveva 6 anni. A partire dall'8 settembre, dalle finestre della nostra casa, vediamo numerosi treni fermi sulla piazzola antistante di deposito locomotori. Non posso farne a meno? Cerco di alzarlo. Non si sente. Sì, sì. Ecco, se mi permettete di non usarlo. È meglio tenerlo. Sì, meglio tenerlo. Sono carichi di persone, deportati in attesa di partire per i campi di sterminio del Reich. Stipati nei vagoni ci sono ebrei, militari, zingari, malati, anziani, handicappati fisici e mentali, mogli e figli di oppositori del regime. In inverno sono costretti a sostare al freddo siberiano della zona dei piani. In estate invece muoiono a causa del caldo soffocante. Notte fra il 3 e il 4 ottobre, sempre 1943. Vengo svegliata da uno strano vociare. Dove mi trovo? Credo di sognare, ma non è un sogno. Purtroppo è la realtà ed è peggiore di un incubo. Sono seduta su una specie di letto fatto da 2 materassi appoggiati su assi di legno, sostenuti da grossi blocchi di cemento. Mi rendo immediatamente conto di dove mi trovo e perché siamo finiti in quell'orribile luogo. È umido, quasi buio, cola acqua dalle pareti. Mamma è seduta in un angolo di questa specie di letto e veglia su di noi. Ora ricordo tutto. La sera precedente, con le mie sorelle, la mamma e il papà, abbiamo preso materassi, coperte, cuscini, pochi indumenti. Abbiamo attraversato i binari per raggiungere la galleria del Virgolo. C'erano enormi schegge di bombe, linee elettriche divelte. Giunti in via Macello, nei pressi del sottopassaggio del ponte ferroviario che attraversa l'Isarco, lo spettacolo apparso ai nostri occhi era orribile. All'incirca dove oggi si trova il colorificio Straudi sorgeva un convitto di suore. Ospitava ragazze, studentesse o lavoratrici provenienti da fuori città. Era stato colpito in pieno. Conoscevo bene quel posto. Spesso, ritornando dal Maso Nusso, percorrevamo quella stradina. Accompagnate dalla mamma, specie nel periodo estivo, aspettavamo papà che rientrava dal servizio. Era bello percorrere la strada tutti insieme. Ora di quell'edificio era rimasto solo un cumulo di macerie. Mi impressionò molto vedere gli oggetti, anche quelli più intimi, di quelle povere ragazze sparsi dappertutto. Ho visto letti, materassi sospesi nel vuoto dall'unica facciata rimasta. Gli arredi color celeste erano ormai solo lamiere contorte. La scena più raccapricciante fu vedere sospesa nel vuoto una bambola e la tonaca di una suora. Il bombardamento provocò la morte di decine di persone. In quell'orribile luogo, nella galleria, nel rifugio della Galleria del Virgolo, rimaniamo 7 giorni e 7 notti. Ancora oggi, ripensando a quei terribili giorni, mi chiedo come donne e bambini hanno potuto vivere in quelle condizioni. La realtà è che in quel momento era l'unico rifugio sicuro. Se all'interno vivevamo in condizioni estreme, all'esterno c'era l'inferno. Muri crollati, facciate scrostate, tetti sfondati, case disabitate e macerie. Tante macerie e silenzio. un silenzio assordante che ti mette addosso una paura maledetta che unisce morte, fame, freddo. E poi il distacco dai tuoi cari, la morte di persone che ami, la tua casa perduta, distrutta, ridotta a un cumulo insignificante di macerie tutte uguali, e nessuna certezza. Il reale silenzio viene interrotto da urla straziate dal dolore, quando fra quella distruzione viene rinvenuto il corpo senza vita di un congiunto. 11 ottobre. Il giorno seguente arriva papà e ci ordina di preparare tutte le nostre cose perché dobbiamo andarcene, sempre dalla galleria del Vircolo. In stazione c'è un treno che trasporta truppe tedesche, partirà verso sera direzione Verona. Non ho mai saputo come mio padre abbia ottenuto il passaggio. Saliamo su una carrozza di terza classe, fatta completamente in legno. Ci sediamo fra soldati tedeschi diretti al fronte. Sono molto gentili nei nostri confronti. Ci offrono anche del pane nero spalmato con margarina. Immaginate la nostra felicità. Ma il mio cuore di bambina è ferito. Ho compiuto 6 anni a giugno. La cartella è pronta. Come lo sono, il grembiule bianco con il fiocco blu, l'astuccio in legno fatto da mio padre, una matita, una gomma, un quaderno. La cartella di cartone già usata da Valeria è molto rigida, sembra fatta di cuoio. Oh, quanto ho sognato questo momento. Finalmente anch'io avrei iniziato la scuola. Nella mia mente ho pianificato tutto. Valeria mi avrebbe accompagnata. Una volta giunti a casa avrei fatto i compiti aiutata da lei. Finalmente avrei potuto dire anch'io so leggere e scrivere come te. Invece mi ritrovo su quell'orribile treno dove poco prima avevano viaggiato delle mucche. In un angolo c'è della paglia e qualche ricordino. Diretta a Chioms. Quel viaggio sembra non finire mai. E poi si passa al 24 maggio 1944, è sera. Si sentono i grilli stridere nei campi, le rane gracidare nei fossi, tutto è tranquillo. Questa calma non fa presagire quello che accadrà alla mia famiglia. Siamo appena rientrate dal fioretto di maggio, siamo molto felici, allegre. La zia ci ha promesso che avremmo trovato un'abbondante porzione di ciaresa da gustare tutti in compagnia nel cortile. Per noi il divertimento maggiore è quello di sputarci addosso i noccioli. Per fortuna che non ci sono gli studenti. Con la mamma commentiamo la magnifica serata che ci aspetta, ma giunte nel cortile di casa, troviamo ad attenderci il capostazione del paese vicino. Chiede alla mamma di poterle parlare in privato. Mie sorelle e io non abbiamo idea di cosa possa dire di tanto urgente alla mamma. Non ci sfiora l'idea della cruda realtà che fra poco travolgerà la nostra vita e i nostri sentimenti. Poi tutto ci è tremendamente chiaro. Papà è morto. Il nostro papà, che abbiamo imparato a conoscere da troppo poco tempo, il nostro nuovo compagno di giochi e di passeggiate nella silenziosa campagna, il nostro caro, amato papà, ucciso alcuni giorni prima presso la Galleria del Vircolo, a Bolzano. La crudele notizia ci è stata comunicata in ritardo a causa dell'interruzione della linea telegrafica. Ironia della sorte. Mio padre doveva prendere possesso del nuovo alloggio di via Gorizia proprio quel terribile 13 maggio 1944, un giorno che aveva tanto atteso. Doveva essere un giorno di festa. È divenuto invece il suo anniversario di morte. Agosto 1945. Ormai tutte e quattro siamo riunite davanti a quel mucchio di terra. Mamma, che è una donna forte e meravigliosa, rompe questo pesante silenzio e inizia a recitare la preghiera dell'eterno riposo. Improvvisamente Vittoria si inginocchia e inizia a scavare con le sue piccole mani di bimba di 4 anni appena, ma con una tale energia e velocità che in un attimo fa una buca dove infila il suo braccino fino al gomito. Con voce tenera e dolcissima, che solo una bimbetta possiede, dice: «Papà, prendi la mia mano, che ti aiuto a venire fuori, che andiamo a casa». Impietrite assistiamo alla scena. Poi mamma si china su di lei e la stringe fra le braccia, con una tale tenerezza e amore che solo una mamma sa dare. Viaggio di ritorno avviene in assoluto silenzio. Ci accompagna la certezza che il nostro papà è morto davvero. Bolzano subì molti bombardamenti. Noi, popolazione, eravamo stati ragguagliati su come comportarci. Appena suona la sirena, dobbiamo scendere nei rifugi. All'inizio la maggioranza dei rifugi erano stati ricavati modificando le cantine, ma presto ci accorgemmo che erano pericolosi, non sufficientemente resistenti alle bombe. Erano invece sicuri i rifugi ricavati da gallerie scavate nella montagna. Eccone una descritta nel mio diario, ma anche questa era pericolosa perché molto vicino alla ferrovia e ci hanno appena accennato il pericolo. Bolzano, 22 agosto 1944. Ecco l'allarme. Non potete immaginare che fifoide. Siamo nella zona di Otrisarco, proprio la più pericolosa. Ma sono anche contenta perché l'autista, con molto coraggio, ci porta proprio vicino alla galleria. Al terzo suono siamo già dentro. La galleria è bella, è un grande tunnel con una casetta con il simbolo della Croce Rossa, il WC e l'acqua potabile. All'inizio c'è scritto «Zona pericolosa, avanti», ripetuto 2 volte lungo il percorso. Poi «Qui siete al sicuro, calma». Sono sistemate tante panche. Non sono entrata negli stanzini laterali, costruiti come se fossero delle casette nella galleria, perché hanno detto che sono stretti. Dopo qualche giorno, invece, mi hanno detto che in quei locali vi lavorano costretti i prigionieri del campo di concentramento. Quando tutto è silenzioso, specie di notte, dalle finestre di casa percepisco solo il fischio del treno, ma è già qualche mattina presto che sento anche sparare. Dicono che sono i tedeschi che fucilano i prigionieri del campo di concentramento. Sarà vero? Qui, in tutta Bolzano, non si parla d'altro che dei prigionieri del campo di concentramento. Fanno pena guardarli per la loro magrezza, per come sono vestiti e per come li trattano. Se ne vedono squadroni per le strade, li portano a lavorare nella galleria del vicolo. Davanti sono le donne e dietro gli uomini. Tutti cercano di dar loro qualche cosa. Adesso leggo una testimonianza del dottor Avi. Nell'autunno 1943, io, ormai giovane 17enne, sono stato chiamato dall'esercito tedesco alla visita di leva presso la caserma Vittorio Veneto, pronto per essere arruolato nella Wehrmacht o negli SS. Al che i miei genitori, avendo potuto contattare il direttore italiano della fabbrica di Ferrara, IMI, che era alloggiata all'interno della galleria del Vircolo per costruire cuscinetti a sfera, quindi una fabbrica strategica, hanno ottenuto da lui il consenso perché venisse assunto come operaio e destinato al reparto frese. E così iniziai subito il lavoro in galleria, mentre i miei genitori cercavano di aiutare le famiglie di Ferrara, della IMI, traslocate di forza a Bolzano. Contemporaneamente arrivava in galleria ogni giorno al mattino presto, sul camion scoperto con le guardie, i prigionieri dal campo di concentramento di Viarese, sottoposti al lavoro forzato, e fra questi numerosi ebrei scortati dalle SS. Famoso fra loro un sergente severissimo ed aguzzino, che usava con energia uno scudiscio contro chi sgarrava. Ho conosciuto così alcune donne ebree di Firenze che di nascosto e a rischio personale, c'era un controllo severo, ho potuto aiutare nelle loro richieste di aiuto. Di nascosto, ripeto, si avvicinavano alla mia macchina e mi allungavano dei bigliettini per le loro necessità. Ho ancora presente queste persone sofferenti nella loro casacca di prigionieri, sulla quale spiccava il simbolo giallo della stella di Davide. Purtroppo, come ho potuto intuire, questi prigionieri ebrei italiani, probabilmente di passaggio al campo di Bolzano, avranno più tardi completato il loro calvario e martirio in Germania, nei campi di sterminio che ben conosciamo. Ricordo ancora il tunnel del Virgolo, quando suonava la lugubre sirena per il pericolo di bombardamento. Veniva ancora raggiunto dalle persone che vivevano nelle vicinanze. E ancora, nella mente mi si presenta il ricordo triste di un bombardamento su Bolzano, quando una grossa bomba colpì via Claudia Augusta, proprio di fronte alla nostra casa, creando un largo e profondo cratere, danneggiando pure un angolo di casa dove avevamo la cucina. Questo amaro spettacolo l'ho vissuto quando, terminato il lavoro, mi si è presentato nella sua cruda realtà uscendo dal tunnel. Verso la fine della guerra, nei primi mesi del 45, si cominciano a notare lungo la nazionale un movimento di viandanti, prima rari e poi qualcuno in più, sembrano dei mendicanti, magrissimi, malconci, sporchi. Chi sono? Bolzano, 2 marzo 1945. Gli allarmi si susseguono in continuazione. Durante il primo allarme di oggi, notiamo seduto sul marciapiede davanti alla Montecatini un uomo mal ridotto. Sembra che stia male. Accorriamo. È uno dei prigionieri deportati. Rientra dalla Germania. L'abbiamo fatto entrare. Dovreste vedere in che condizioni è. Magrissimo, scavato. Gli si vedono tutte le ossa. Pallido. Gli diagnosticano la priorite doppia. Sembra uno dei personaggi citati nei Promessi Sposi. Quel soldato è 4 anni che non va a casa. È di Milano, via Settembrini. Tutti gli abbiamo dato qualche cosa, minestra e altre cose. I dipendenti della Montecatini sono interessati per il trasporto fino a Milano. C'è un camion di servizio che partirà oggi o domani. Intanto l'hanno fatto ospitare la Lancia. Lo stabilimento della Lancia fa cose meravigliose. Prima impiegava tutti i giovani che correvano il rischio di essere deportati. Ora offre ai reduci che rientrano singolarmente dalla Germania ospitalità per qualche giorno, fino alla partenza per la Lombardia di qualche camion. In questi giorni passano da Bolzano abbastanza prigionieri che rientrano dalla Germania, ma le descrizioni non sono sufficienti per spiegarvi in che stato fisico sono. Il ragazzo ha detto che in Germania è una disperazione, che Monaco di Baviera e Norimberga sono tabula rasa. I morti li portano via e li sotterrano così come sono, senza niente. Ah, lui si è già fatto l'itinerario per l'arrivo a Milano. Mi faccio smontare a porta volta, poi prendo il tram. Poveretto, il soldato reduce dalla Germania è ancora qui. L'autista dipendente dalla Montecatini, che è partito per Milano, non l'ha voluto far montare, gli sembra troppo grave. E adesso probabilmente andrà con un'ambulanza in ospedale, vicino a Brescia. Il soldato non è mai arrivato? Calma. A lei la parola. Io come... Dovrei concludere. La lettera di Orazio Leonardi. La lettura allora. Sì. Orazio Leonardi, quindi, che legge lei? Orazio Leonardi è qui. Internato militare italiano. Prego. 9 settembre. Un boato, accompagnato da raffiche di armi automatiche, scuote le mura della caserma e ci sveglia di sorpresa. Nel panico che segue sento gridare, tutti scendono precipitosamente le scale perché un colpo di mortaio ha sfondato il tetto. Sentiamo urla in tedesco, ci obbligano a scendere in cortile, dove una ventina di soldati tedeschi ci tengono sotto tiro. Un carro armato che ha sfondato il cancello è posizionato in modo strategico. Siamo nel greto del Tandara. Nella folla che si assiepa lungo la passeggiata cerco i volti dei miei genitori. Li vedo che stanno gesticolando con un soldato. Corro fra le loro braccia. Nei loro volti straziati vedo la mia sofferenza. Chiedo loro che mi portino indumenti, dato che ho solamente la divisa che indosso. Tra le lacrime un ultimo abbraccio. Li avrei rivisti solamente dopo 2 anni di sofferenze. 10 settembre, stazione di Bolzano. Sono le 15, il treno, sferragliandosi, avvia verso nord. Abbiamo la certezza di essere diretti in Germania. Comincia a piovere. Dal portellone aperto vediamo passare sotto i nostri occhi paesi e monti conosciuti. Nell'angoscia del domani il mio pensiero è rivolto ai miei genitori, a quello che ho visto nei loro occhi nell'ultimo abbraccio. Alle 17 circa passiamo il confine del Brennero. L'entrata in terra straniera è seguita da un silenzio carico di emozioni dolorose. Qualche singhiozzo represso dal via a un abbattimento generale. 12 settembre, campo di San Boster, nel nord della Germania, in estremo nord. Dopo una camminata di 12 chilometri arriviamo, stanchi, affamati, assetati, nel campo di concentramento. Dopo averci perquisiti nei bagagli e nel corpo, ci assegnano le baracche. Sono buie e tetre. Nei letti a castello in cui cerchiamo di riposare, uno strato di unto annerisce i bordi delle tavole. Non c'è traccia di pagliericcio o coperte. L'acqua è imbevibile, gialla, maleodorante. Nella baracca manca la luce. Le giornate sono lunghe e tristi, il freddo della notte ci penetra nelle ossa. Da quando siamo arrivati non mi sono più spogliato. Siamo infestati dalle cimici, dai pidocchi che ci succhiano quel poco sangue che abbiamo. Siamo debilitati e sporchi, le latrine sono immonde. Non abbiamo possibilità di lavarci. Stiamo diventando dei barboni irritabili. La fame ci torce l'intestino. Siamo sempre in attesa spasmodica del poco cibo che ci danno. La pioggia e la neve hanno ridotto la divisa a uno straccio sporco. Il lavoro è massacrante. Sono affamato al punto da mangiare le lische di pesce che ho trovato nell'immondezzaio della cucina dei tedeschi. Se li scoprono potrei essere punito a calcioni, come è accaduto a un compagno di sventura. Gennaio 44. Sono febbricitante, ho la diarrea. Dopo un breve ricovero di alcuni giorni vengo ricoverato in un lazzaretto. All'annuncio di questo trasferimento mi sono sentito finito. Non ho più la speranza di tornare a casa, a rivedere i miei cari. Sono disperato, nonostante l'incoraggiamento dei miei compagni. Il medico italiano che mi visita diagnostica un grave deperimento organico. Peso 50 kg con gli indumenti di tela che mi hanno dato. Mi esorta ad aver fiducia. Il riposo, ma soprattutto il morale, devono sopperire alla mancanza di nutrimento. Mi consegnano una coperta doppia fatta con ritagli di giornale che deve servire anche da pagliericcio e delle tavolette di legno, una scodella sbrecciata, un cucchiaio arrugginito. Entrato nella baracca sono accolto da una schiera di poveri esseri con teste rasate, ciondolanti, scheletrici. Forse lo sono anche io per loro. Le giornate sono lunghe, la coperta di giornali non scalda. Ho freddo e fame. Credo di non poter sopportare questa vita. Anche questa notte, come altre, è entrata la morte. Dopo un silenzio innaturale, il mio vicino comincia a borbottare un nome di donna. Dopo altre frasi incomprensibili. Mormora, mamma, mamma, poi silenzio. Al mattino ci accorgiamo che è morto. Vigliaccamente in questi momenti mi rifugio sotto la coperta per non vedere, non sentire. Piango lacrime di paura e sconforto. Avendo la possibilità di circolare all'esterno delle baracche ospedale, sempre alla ricerca di cibo, vado verso la baracca cucina gestita dai russi. Attraverso i vetri vedo un russo che sta mangiando da una scodella. Vedendomi mendicare, mi fa cenno di prendere qualche recipiente. Trovo fra le immondizie un barattolo di lamiera arrugginito. Dalla finestra il russo me lo riempie di zuppa. Provo gratitudine per quel russo che mi dà da mangiare, anche se sono un suo ex nemico. È il tramonto. Entra un carro trainato da cavalli che trasporta una grossa botte. Un prigioniero si arrampica velocissimo sul carro e vedo che mangia con le mani quel che contiene la botte. Per istinto salgo anch'io. Mi ritrova con le mani dentro un intruglio di cavo, di patate, su di vari pezzi di pane. Mi ingozzo di quel ben di Dio, ma la festa dura poco. Siamo presi per la collottola e strattonati dal conducente del carro. Stavamo mangiando gli scarti destinati ai maiali. Le conclusioni sono ricordando ancora due donne. Una è Ada Buffalini, la Maria del Lager, quella che prima di Armando Sacchetta ha retto il comitato clandestino interno, tenendo i contatti con la resistenza esterna. L'altra si chiama Franca Turra, è una bolzanina, lei stava fuori, aveva visto passare i treni dell'8 settembre e era andata nella resistenza. Lei teneva la corrispondenza e mandava dentro i pacchi ogni giorno. Ada Buffalini il 30 aprile è in cella, esce dalla cella, ancora in divisa. Cosa fa l'Ada Buffalini, responsabile del comitato interno? Va da Franca Turra, che la viene a prendere al lager. Vanno in casa, dissotterrano un ciclostile, cosa per fare le coppie, e fanno un volantino. fanno un volantino. E il giorno dopo, le due donne, Franca Turra, nome di battaglia Anita, e Ada Buforini, nome di battaglia Maria, la Maria del Lager, vanno alla zona industriale di Bolzano a distribuire quel volantino. Perché? Perché dopo il 30 aprile è il primo maggio, era il primo maggio dopo la liberazione, e le due donne hanno portato la speranza della loro risoluzione agli operai della zona industriale. Il senso è questo. Perché facciamo queste manifestazioni? Perché proteggiamo questa memoria? L'Ampio ormai non ha più nessun'altra funzione, rimane, si fanno nuovi iscritti che succedono ai partigiani e ai patrioti, che ormai mi si spengono uno dopo l'altro, sono gli antifascisti, i giovani antifascisti che si iscrivono all'Ampi, perché l'Ampi ha come compito quello di proteggere questa memoria. E anche queste iniziative sono di protezione di questa memoria. Perché? Perché questa memoria contiene un'enormità di sacrificio, il sacrificio dei 650.000 ex inni deportati negli Stalag in Germania, che hanno rifiutato di fare ancora la guerra, volevano la pace, non ne volevano più sapere, quindi non avevano né al fascismo né al nazismo, e sono rimasti 2 anni per non aver aderito a questi, rinchiusi nei campi di concentramento, 650.000, e poi tutti quelli che sono stati internati nei lager, anche i 9.500 donne, bambini, uomini che sono passati dal campo di concentramento di Bolzano, volevano la pace, riacquistando la libertà. Il senso di questa memoria è che l'enormità di sacrificio è quello che ha consentito a noi ancora di avere un messaggio di speranza, perché in Italia solo questa enormità di sacrificio ha consentito a uomini di essere saggi e di fare la Costituzione. Guardate, la Costituzione è stata un patto di popolo fatta da uomini costretti ad essere saggi e che hanno dato il meglio che avevano. Erano molto diversi gli uomini della Costituzione, ma hanno, ciascuno di loro ha dato il meglio. Perché dovevano dare il meglio? Perché nella Costituzione c'era il risultato di questa enormità di sacrifici, c'erano i diritti e i valori che avevano trattenuto la vita di questi che passavano dai lager, che passavano dagli Stalag, che combattevano nella resistenza. Questo è il senso di questa manifestazione. È un messaggio di speranza per tutti i giovani. Stavolta non siamo riusciti ad averli, i giovani studenti. La prossima volta capovolgiamo le cose. Noi chiediamo alle scuole innanzitutto di fare un'operazione di erudizione, di cultura. Nella scuola deve essere introdotto lo studio obbligatorio di un'ora di Costituzione. Chiamiamola speranza del futuro nella Costituzione, e sia un'ora di studio che ogni scuola deve fare. È questo che devono fare le scuole. Dopodiché saranno le scuole che inviteranno i testimoni, che inviteranno quelli che si mobilitano per proteggere questa memoria. Capovolgiamo la cosa. Se vogliamo andare, perché andiamo verso i giovani? Perché i giovani rappresentano un tempo più lungo nel futuro, molto più lungo del nostro. Per questo ci rivolgiamo ai giovani. E allora un'altra volta andremo noi all'interno delle scuole per portare un grande forziere dato dall'enormità del sacrificio, il forziere del tesoro dei valori e dei diritti che è la Costituzione, dicendo che a ognuno di quei giovani è stata data una chiave, a ognuno di tutti i giovani di tutte le generazioni è stata data una chiave perché possano avere i loro diritti, il diritto al lavoro e altri diritti, e possano orientare la loro vita a questi valori. Ecco il senso della manifestazione che abbiamo fatto qui. Però io voglio ringraziare in questa occasione, ringraziare la Biblioteca Claudio Augusta, ringraziare il Centro Trevi dove andremo stasera, e ringraziare Lani, perché abbiamo bisogno di coordinare tutte le intenzioni, tutti gli sforzi, perché il messaggio di protezione di questa memoria acquisti il maggior vigore. E questo è possibile solo che se le istituzioni, se le associazioni, se la società organizzata fa un'operazione coordinata e convinta di protezione della memoria. Sì, volevo queste due righe soltanto. Sono certa che i ruoli chiave per trasmettere la memoria siano scuola e famiglia. Tra qualche anno, quando noi non ci saremo più, saranno questi giovani a caricarsi del peso di tramandare alle nuove generazioni la memoria e il dramma che è stata la Shoah. Importante fare memoria storica di quei periodi bui, teatri di orrori ed errori commessi contro il genere umano. Se va perduta la memoria di momenti tragici e sofferti della guerra, vengono cancellati momenti di vita che ci hanno formato e temprato. Questo renderebbe inutile il sacrificio di tanti giovani vite che con i loro atti di eroismo si sono immolate per la libertà e la patria. La memoria serve per non ripetere gli orrori ed errori del passato. Non è certo un luogo comune, ma è quello che voglio trasmettervi con questa mia modesta testimonianza. Bravo Valeria. Io avevo portato per gli studenti, prima di andare via, avevo portato per gli studenti delle cose scritte da distribuire. Voi potete prenderle qui. Sì. E abbiamo anche la bibliografia. Sì, anche noi. Ecco.